Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ivrea negli anni 70 e 80 era un posto molto cool in cui vivere. Era una città ricca, economicamente e culturalmente. Era un bel posto anche per far crescere dei bambini. E così i 2 anni di contratto di mio padre divennero 4, poi 6 e poi 8. Quando alla fine mio padre lasciò l'Olivetti all'Italia, io e mia madre rimanemmo. Mi chiamo Vittoria Bartan, ho 38 anni, vivo a Borgo Franco di Ivrea, in provincia di Torino. Faccio la maestra, la responsabile, un po' anche il presidente. E sono sposata con Andrea e abbiamo 2 bambini, Caterina che ha 7 anni e Jacopo che ne ha 4. Dove si trova esattamente la felicità? So che è una domandona questa, però provate a fermarvi 5 secondi, facciamo anche 5 minuti magari se ce li avete, o facciamo 30 secondi, che è più facile per tutti, e cercate di capire o di immaginare le volte in cui avete trovato quel barlume di felicità, in cui l'avete proprio sperimentato sulla vostra pelle, magari era tanto tempo fa, magari invece no, magari erano 2 ore fa, magari è adesso, magari è in questo momento qua, preciso, alle 16.07 di un giovedì qualunque, 24 di novembre del 2011. Ecco, se l'avete trovata, dove sta? C'è un luogo preciso in cui si trova? Perché la convinzione è sempre stata quella, e lo è tuttora per molti, o forse è una forma di educazione, che la felicità sia in un luogo e tu la devi trovare. Cioè devi proprio fare della fatica per raggiungerla, devi fare una strada, un percorso, come dicono alcuni. E invece magari non è così. Io ancora non lo so bene e quindi lo domando a voi. Però se avete idea, e se per caso l'avete trovata nella vostra vita, una forma di felicità, e se avete voglia di raccontarmela, io sono qui. 349-238-6666. Questo perché oggi non è arrivato oggi, è arrivato qualche mese fa, come tutti i racconti che arrivano a voi siete qui, @radio24.it. È arrivato questo racconto di Vittoria, che non parla esattamente di dove si trova la felicità. È un veloce riepilogo della sua vita, che è stata una vita abbastanza movimentata, se non altro per gli spostamenti dei genitori prima e suoi dopo. E poi è finita, inteso come in questo momento si trova in un posto che probabilmente lei stessa non immaginava, in cui non immaginava di finire. E in qualche modo dalle sue parole viene fuori questa idea, per cui c'è stata una forma di ricerca della felicità. E poi la felicità era forse più vicino e più dietro l'angolo di quanto la immaginava. 349-238-6666, oppure voi siete qui, @radio24.it. Michele mi scrive: la felicità è camminare su un filo. Simone, la felicità è in Canada. Mi piace, è precisa proprio. Cioè è in Canada, non è ad esempio in America, no, è proprio in Canada. Silvia, la felicità è a Parigi, a casa, a Roma, è su una spiaggia, a un aeroporto, a volte in ufficio, altre in un letto. Enzo, questa ve la leggo con calma perché è qualche anno che ho trasformato la mia vita da crogiuolo di eventi stocastici in un progetto articolato in cui ogni azione e ogni singolo gesto fa parte di un piano che è teso al raggiungimento del paradiso emotivo-emozionale. Sto setacciando la mia esistenza palmo a palmo in modo sistematico. Sto bene, sono euforico, ma ancora non sono felice. La felicità è in qualche luogo dentro di me che ancora non ho progettato di perquisire. Enzo, sembri uscito da una lezione di Massimo Cacciari e quindi in qualche modo mi stai simpatico. Ci ho capito veramente quasi la metà. Esatto, se qualcuno ci spiega cosa vuol dire stocastico, io sono veramente felice, perché potrei chiedere a Margherita di cercare su Wikipedia, ma no, mi piacerebbe che in un bel 140 caratteri, per far piacere anche a Tiziano, mi spiegaste che cosa vuol dire stocastico, eh? Ho trasformato la mia vita da crogiuolo di eventi stocastici. Aspetta, forse ce l'ho, forse vuol dire... Bravo Paolino che togli la base, ci provo, poi magari non è così, però secondo me crogiuolo di eventi stocastici è un grande miscuglio di eventi a caso, eh? secondo me stocastico, ma guarda Tiziano, secondo me stocastico anche un po' a caso, però 3492386666, due cose oggi: dove si trova la felicità e cosa vuol dire stocastico. Vabbè, uno mi scrive: siamo del comitato Liberazione Palloncini, la nostra felicità è liberarli, e devo dire che la patologia si nasconde veramente ovunque. E poi Laura invece mi ha scritto una cosa molto più concreta: martedì sono fuggita, mi sono licenziata in tronco, via fax. Esistono ancora i fax, tra l'altro. Esistono ancora solo per comprare i giocatori al mercato, nel calciomercato, e per licenziarsi. Via fax, senza nemmeno parlare con il mio capo. Semplicemente ho pensato che eliminare un fattore di infelicità potesse portarmi un po' più vicina alla felicità. Credo di meritarmi di poterla inseguire, la felicità, se non addirittura pretendere. Ora sono disoccupata, alcuni mi danno della pazza, ma io sto molto, molto meglio. Questo è un altro aspetto interessante. L'idea che la felicità si meriti oppure no. Io credo di no. Credo che sia un po' anche quella una forma di educazione che arriva molto italiana, quella che si debba meritare qualcosa. Semplicemente invece magari c'è e basta prendersela. 349-238-6666. Vediamo dov'era la felicità per Vittoria. Sono nata nel 1973 ad Ashford, sulla costa del Kent, in Inghilterra. Leggende di famiglia narrano che nel 1974 mio padre, che faceva l'ingegnere nella centrale nucleare di Dungeness, poco lontano dal nostro bungalow sulla spiaggia, decise di fare un colloquio di lavoro di prova prima di cercare seriamente un'altra occupazione. Mia madre non era esattamente una sostenitrice del nucleare, e crescere me e mio fratello più piccolo all'ombra di una centrale le pareva azzardato. Così premeva su mio padre affinché trovasse un altro impiego. È una tipologia abitativa tipicamente britannica. Quando si acquista un bungalow, sono di solito case che non hanno le fondamenta, come delle specie di mobile home di lusso. Non sono a forma di roulotte, ma sono proprio a forma di casa, ma che sono abbastanza temporanee. Il colloquio di prova che fece mio padre fu con una società che si chiamava British Olivetti. Gli offrirono seduta stante un contratto di 2 anni da technical writer. Doveva scrivere i manuali dei PC Olivetti. Il lavoro era in Italia, a Ivrea, ai piedi delle Alpi. Mio padre era un appassionato alpinista e sciatore. Mia madre era di origini italiane e aveva passato tutte le estati della sua giovinezza in Liguria, a Velva, paese di cui era originario mio nonno. Mio padre accettò subito, senza consultare mia madre. D'altra parte, che obiezioni poteva avere lei, no? Ecco, fu l'inizio della nostra vita in Italia e fu la fine del precario matrimonio dei miei genitori. Ci trasferimmo tutti e 4 a Ivrea. Vivevamo a Talpogna, nelle case della Olivetti, insieme a persone provenienti da tutte le parti del mondo. Dopo aver pregato invano i miei nonni paterni di riportarmi a casa dopo la loro prima visita, mi ero adattata rapidamente alla vita in Italia, imparando l'italiano più in fretta dei miei genitori. Ivrea negli anni 70 e 80 era un posto molto cool in cui vivere. Era una città ricca, economicamente e culturalmente. Ed era un bel posto anche per crescere dei bambini. E così i 2 anni di contratto si estesero a 4, 6, 8. Andavo in un asilo Olivetti ed estate al centro estivo Olivetti e in colonia al mare con l'Olivetti, naturalmente. Quando mio padre la lasciò, l'Olivetti e l'Italia, noi rimanemmo. Finii così per crescere in una piccola città di provincia con grandi orizzonti e enormi aspirazioni. La città, non io. Ero l'unica bambina e poi ragazza straniera della mia classe, cosa che saltava immediatamente agli occhi di tutti gli insegnanti per via delle lentiggini e dei capelli rossi. Dal primo anno di liceo mia madre incominciò subdolamente a tessere per me la trama della mia vita futura, fino a farmi credere che l'idea di andare a vivere all'università in Inghilterra fosse stata mia. Scrivemmo insieme le 5 domande di ammissione consentite e poi scelsi Cardiff, in Galles. E solo a Calais, davanti alla Manica, realizzai che avrei preferito di gran lunga andare all'università a Torino o a Milano, come la maggior parte dei miei compagni di liceo, e lì piansi tutte le mie lacrime. Il fatto che avessi lasciato il mio fidanzato in Italia non aiutava. Fortunatamente i miei genitori insistettero perché provassi almeno un trimestre, e il mio fidanzato mi lasciò dopo poche settimane, il che aiutò moltissimo. 3 anni di università nel sistema britannico e 1 anno di Erasmus a Barcellona cancellarono dalla mia mente e dal mio cuore Ivrea. Una resistenza insita al cambiamento, ma dopo un periodo di adattamento mi affeziono molto al posto dove mi trovo in quel momento, tranne Milano, a cui non mi sono mai affezionata, non so perché, quindi diciamo che non sono molto fedele nei miei amori per le città. Nel 1996, dopo la laurea, tornai in Italia, a Milano. Facevo l'insegnante precaria e durante l'estate mi capitò di trovare lavoro a Ivrea come animatrice del centro estivo Olivetti, quello che avevo frequentato da bambina. Ci tornai con molto snobismo e un lieve senso di sconfitta. E invece il lavoro, i colleghi e l'ambiente erano entusiasmanti e il mio atteggiamento cambiò velocemente. Nel 1998 tornai a casa da mia madre, che viveva ancora ad Ivrea, con l'intenzione di cercare lavoro in una grande città, preferibilmente all'estero. Invece, un ragazzo che avevo conosciuto durante l'estate al centro estivo Olivetti mi propose di fermarmi a Ivrea, a lavorare con lui e un gruppo di altre persone che stavano rilevando l'ex centro estivo Olivetti per farne un centro servizi per l'infanzia. Quel ragazzo è diventato mio marito l'anno scorso, dopo 13 anni e due figli insieme. Viviamo felici e contenti in un paesino vicino a Ivrea e continuiamo a lavorare nell'ex centro estivo Olivetti. Tutto merito di Camillo e Adriano, credo. Dove sta la felicità? Non credo che stia in un punto preciso. Non penso sia in un luogo da raggiungere. E più in generale non penso che la felicità stia in un luogo e noi dobbiamo andare a prendercela. Continuo a non sapere bene dove stia, però almeno ho questa strana certezza. Da ragazzo però pensavo un'altra cosa. Da ragazzo pensavo che la felicità non fosse qui. Ero convinto che non si trovasse lì dove mi trovavo io. Ovunque io fossi, mi sembrava che per poter essere felice io dovessi andare da un'altra parte. Non sapevo bene dove, ma sicuramente non lì dove mi trovavo io. E lei si spostava poi, tra l'altro, si spostava in base a dove si spostavano le cose che mi stavano intorno. Per cui era in Inghilterra quando il mio amico Fede ci andò a vivere per un anno. Oppure era in Sardegna quando i miei cugini ci andavano, lasciando me e mia sorella a casa in estate. Ma la felicità era anche più lontana. Era a Los Angeles ogni volta che guardavo una puntata di Beverly Hills 9210. Oppure era alle Hawaii quando ero davanti a Magnum PI. Insomma, era come se la felicità fuggisse da me, o io da lei. Come se la cosa che contava fosse cercarla, chissà dove, ma non lì, non vicino a me. Non in un posto in cui potessi davvero afferrarla. Poi un giorno, quando avevo circa 20 anni, mi creai il mio primo indirizzo email. Facevo l'università e ancora non sapevo bene come funzionasse. Non conoscevo la differenza tra un sito, un indirizzo, un motore di ricerca. Tutto era nuovissimo, tutto era complicato. E non immaginavo all'epoca che oggi non potrei farne senza. Vabbè, comunque, il mio primo indirizzo di posta, che se non ricordo male era un Hotmail, arrivò nello stesso periodo in cui il mio amico Raul, che dopo il liceo era entrato in Marina, si era appena trasferito in Florida per un corso di pilota della Marina Militare. Lui lo vedevo già poco perché frequentava l'accademia e quindi viveva a Livorno. Ma quando partì per un posto sconosciuto che si chiamava Pensacola e si trovava nel sud degli Stati Uniti, capì che l'avrei visto sempre meno. E che soprattutto lui, là, ovunque fosse e di qualsiasi posto si trattasse, là, lui sarebbe stato felice. Sicuramente più di me. Quando ho letto il racconto di Vittoria mi è venuto in mente di andarmi a ricercare un paio delle mail che ci eravamo scambiati. E rileggendole ho capito che la felicità non sta né vicino né lontano. La felicità è un luogo che già frequenti, ma che semplicemente non riconosci. E queste due sono solo due delle molte mail che ci siamo scambiate in quel periodo. 12 novembre 1997, Romentino. Caro Raul, io sto bene. E così spero di te. All'università le cose procedono. I corsi sono abbastanza noiosi, ma i compagni sono piacevoli. E ci sono un paio di ragazze davvero interessanti. Non so dove mi porteranno questi studi e questa laurea, ma al momento proseguo, perché sinceramente non saprei cosa fare di diverso. Da qualche giorno è arrivato il freddo vero, quello nostro, della pianura. Quello che rende tutto grigio e uniforme. Quello che diventa buio già alle 4 del pomeriggio. E ti impedisce di immaginare che esistano giornate lunghe e calde. Ti penso in Florida, dove ho letto che ci sono 30 gradi. Ma cosa fai durante la giornata? Hai già iniziato i corsi di volo? Piloti gli aerei? Ma c'è il mare dove sei tu? Ogni tanto, sai, penso che dovrei partire anche io. Che almeno in un posto come quello, il clima è sempre bello. Che si fanno cose più interessanti e chissà, Magari da lì l'Italia sembra più bella di quanto non lo sia da qui. Ti abbraccio con tutta l'invidia e l'affetto di sempre. A presto, Matteo. Novembre 1997, Pensacola, Florida. Caro Teo, mi fa piacere ricevere le tue mail. Mi manca molto quel pezzo di vita che ho lasciato lì. Avrei voglia di vedervi tutti, voi ex compagni, ma anche gli amici del mio paese. A Natale spero di poter tornare, così ci organizziamo una bella pizzata di classe. Qui la pizza fa schifo. In generale il cibo fa schifo. Il corso è molto interessante, ma occupa tutta la giornata, tutto il tempo. La vita militare qui è ancora più dura di quanto non lo sia in accademia. E anche il clima non è un granché. L'umidità è altissima. La notte si dorme male e sudati. Credevo che le nostre zanzare di risaia fossero orribili, ma quelle che si vedono qui sembrano elicotteri. Ti confesso che in questi giorni mi piacerebbe respirare un po' dell'aria fresca che si respira lì. Ho conosciuto una ragazza molto carina, ma mi sembra lontana anni luce da me, da noi. Ha 19 anni, ma è come se ne avesse 40. Dopo 3 sere che uscivamo, mi ha parlato di figli, di famiglia, pensa te. Sono praticamente scappato. Fossi in te non partirei proprio, e io non vedo l'ora di tornare. Hai ragione che l'Italia da qui sembra più bella. Forse è per questo che qui mi sento un po' a disagio. Qualche sera fa ho conosciuto un ragazzo italiano che fa il cameriere a Miami. Lui mi ha detto che è un postaccio, che la gente qui non è felice. Io alla fine ci rimango un anno qui e spero di poterlo essere almeno un po'. Ti abbraccio, amico mio. Dammi tue notizie. Raul. Se ripenso a te, a volte sai mi viene male. Italia mia, al Genova c'è un altro sole. Non mi chiedere di spiegare cosa provo quando devo ritornare. 349-238-6666. Ho scoperto cosa vuol dire stocastico e ringrazio quelli che me l'hanno scritto. Dal greco stokazein, a me quando dicono le robe prese dal greco sembrano sempre inventate. Dal greco stokaizen, con un H in mezzo, ma dai, ma non è vero, non ci credo. Margherita, ti prego, cercalo. Dimmi che stokaizen non è vero, perché nel greco non c'è mai una Z. Vabbè, dal greco stokaizen, tirare al bersaglio con l'arco, cioè diffondere gli eventi in modo parzialmente casuale. Comunque, alcuni dicono stocastico casuale, probabilistico. Si usa in fisica per definire gli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti a basse dosi. Claudio, uno potrebbe scrivere qualsiasi cosa, ovviamente. Il mio professore di economia dice sempre che la vita è stocastica, cioè non puoi comandarla. 349-238-6666. Non so se è riuscita a comandarla lei la sua vita, però alla fine forse è nel posto in cui vorrebbe stare. Vittoria, pronto? Vittoria? Sì, ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Senti, c'è un po' di felicità a Ivrea, confermamelo. Sì, un po' sì, residua, miracolosamente, non si sa come, ma c'è. Residua da dove, scusami? Residua forse da un passato più glorioso e più positivo di adesso, ma, però nonostante tutto si resiste. Ma infatti, scusami, partiamo da lì, perché io mi ricordavo di questo posto che si chiamava Talponia. Sì. Ma che cos'è esattamente Talponia, Ivrea? Talponia è un complesso residenziale che ha costruito Olivetti per le persone che faceva soprattutto venire dall'estero per lavorare all'Olivetti negli anni 70 e 80, ed è particolare perché parte è sottoterra, e da qui forse il nome Talponia, e poi dentro ci sono questi piccoli appartamenti, però ecco, la sua particolarità è architettonica, un po' come tutte le costruzioni Olivetti. E io mi ricordo questa cosa per cui non si vede di fatto dalla strada, si vede da giusto? Fuori, no, perché è coperta da un prato molto grande, e poi ha invece dall'altra parte, però nascosta verso il bosco, una vetrata molto grande, insomma. Ah, da cui prendono luce gli appartamenti, ok. Ti ringrazio, guarda Vittoria, è magnifico perché solo due parole si capisce che sei un insegnante, proprio dalla precisione con cui descrivi le cose. Che cosa insegni? Che cosa fai esattamente adesso nel centro? Allora, scusami, adesso, spiegami che cos'è esattamente. Villa Girelli è l'ex colonia diurna Olivetti, diurna nel senso che l'Olivetti aveva tanti posti dove d'estate mandava i figli degli operai e dei suoi lavoratori in generale, alcuni al mare, alcuni in montagna, Donorati, come Marina di Mancia, Brusson, e poi aveva anche una colonia diurna dove si veniva la mattina e si tornava a casa la sera, per i genitori meno coraggiosi forse. Okay. E, E Villa Girelli è un parco di 40.000 metri quadrati dove ci sono 5 padiglioni disegnati di nuovo da architetti di fama internazionale. Allora, ma tu cosa fai esattamente, scusa Vittoria? Io li faccio, qui per attiva faccio tante cose, faccio la maestra alla scuola dell'infanzia, che è una scuola dell'infanzia bilingue, per cui io sono la maestra che parla inglese o che parla strano, a seconda della propensione dei bambini per la lingua. E poi mi occupo dei servizi per i piccoli, 0-6 anni. Ma scusami, ma è una struttura privata quindi? Sì. Okay. Privato sociale. Ok, ho capito. Senti, invece una cosa che non c'entra con questo, io sono un po' curioso di sapere i tuoi genitori che fine hanno fatto, se ci sono ancora, allora, se sono in Inghilterra. È ancora qua, sì, mia mamma è ancora qua in zona, e anche mio fratello, e invece mio padre vive in Francia. Benissimo, tuo padre, vabbè, ne abbiamo perso le tracce, anche se era la figura più barocca, diciamo, della famiglia, mi sembra di capire. Senti, sì, attualmente, ecco, tuttora è così, la figura più barocca della famiglia. Vittoria, senti, purtroppo ti devo lasciare, ma ti ringrazio moltissimo. Grazie. Mi ricordi solo come si chiamano i tuoi figli, che hanno una faccia simpaticissima dalla foto? Caterina e Jacopo. Vittoria, grazie ancora. Grazie a te. Ciao, in bocca al lupo, ciao, grazie. Adesso la borsa, ho avuto un attimo la borsa. Voi siete qui. La foto di Vittoria è abbastanza emblematica. Vi spiego perché. Perché Vittoria, se mai ha un senso la cosa che sto dicendo, ha la tipica faccia, il tipico volto inglese. Ecco, e l'ho detta sta cosa, non volevo dirla, invece l'ho detta. Che è una enorme banalità. Ha i capelli rossi, come descriveva lei, ha la carnagione chiara, ha su un giubbotto rosso, e i suoi due bambini hanno, se è possibile, il viso ancora più inglese del suo, soprattutto il bimbo che non guarda nella telecamera ed è molto divertito. La cosa ancora più bizzarra è che probabilmente il contesto, i capelli, il viso, eccetera eccetera, rendono anche quello che sta intorno a lei, che probabilmente sono le campagne fuori Ivrea, fanno ricordare tipo il Somerset. 349-238-6666, dov'è la felicità? Per alcuni la felicità è tornare a casa, e come scrive Enea, a volte per la felicità basta poco, come tornando a casa arrivare in barriera da Grate della tangenziale est e non fare la coda. E questa cosa del tornare a casa di fatto è uno dei punti su cui abbiamo riflettuto e che ci è venuto in mente a tutta la redazione quando abbiamo pensato al fatto che spesso la felicità è sentirsi a casa, e quindi il punto estremo di felicità sia tornare a casa. E il ritorno a casa più famoso della storia e probabilmente della letteratura è quello di Ulisse. Quindi tenetevi forte, perché oggi si vola veramente alto, forse troppo, ragazzi. Facciamo altro? Parliamo di nani e ballerine? No, rimaniamo qua, perché abbiamo voluto, vedete come vi coinvolgo quando un po' mi imbarazza, abbiamo deciso in redazione, io insieme a Margherita Ina, Tiziano Bonini, anche Paolino Corleoni e Stefano D'Andrea, e tra l'altro anche vorrei salutare Viola Bottoni, che oggi è qui con noi per i fatti suoi, però è di là in regia e ci riempie il cuore di felicità, è un po' un ritorno a casa il suo, insomma, tutto per dire che il ritorno a casa più famoso della storia della letteratura è quello di Ulisse nell'Odissea di Omero. C'è un punto in particolare in cui lui, sapete, torna a casa e ci trova i proci a casa sua, giusto? Lui è coperto di stracci e nessuno lo riconosce. Chi lo riconosce? Il cane Argo lo vede e gli succede una cosa particolare che Omero racconta molto precisamente in alcuni versi. Insomma, quindi il pezzo che sto per leggervi è un po' anche per farvi la parafrasi, come si fa a scuola, è proprio quel pezzo in cui Ulisse si trova insieme a Omeo, che lo sta accompagnando in casa, nessuno l'ha riconosciuto perché lui è coperto di stracci, quando è sulla soglia di casa, ridotto malissimo, lercio e sporchissimo, incontra il suo cane Argo. Stavano dunque così tra loro questi due ragionando, e un cane levò, che qui vi giaceva, la testa e le orecchie. In sostanza, Ulisse sta parlando con Eumeo, e mentre sta parlando si sente la sua voce e c'è un cane lì per terra che alza la testa e le orecchie. Ed Argo esso era, il cane di Ulisse, allevato e l'aveva senza goderne, che prima doveva partire per Ilio. Qui si spiega che il cane è Argo, cioè il cane di Ulisse, Lui dice che l'aveva allevato, Ulisse aveva allevato questo cane, però di fatto non aveva goduto la compagnia, perché era dovuto partire per Ilio prima che lui crescesse e che di fatto diventasse il suo cane. E poi va avanti. Il cane Argo qui dunque giacea, tutto pieno di zecche. E appena Ecco s'accorse d'Ulisse che gli era vicino, scosse la coda ed entrambi lasciò ricadere le orecchie. Insomma, il cane Argo è lì, è in una topaia, è conciato malissimo, c'ha le zecche. Appena sente la voce di Ulisse, comincia a scodinzolare e fa cadere le orecchie, no? Che è la cosa che fanno i cani quando sono un po' eccitati. Ma poi la forza non ebbe di farsi da presso al padrone, cioè non ha la forza di alzarsi e corregli incontro. E questi, cioè Ulisse, le pupille distolse, una lacrima terse, senza che Omeo lo vedesse, e chiese. Cioè, Ulisse si asciuga una lacrima, distoglie lo sguardo e non guarda più il cane, e chiede a Omeo che di fianco a lui. E Omeo, gran meraviglia che giaccia nel fimo un tal cane. Bello d'aspetto è certo, però questo dir non saprei se egli, oltre a questa bellezza, veloce anche fosse nel corso, oppure se come i cani da mensa egli fosse solo per la bellezza, che solo per la bellezza loro li allevavano, i loro padroni. In sostanza, Ulisse si rivolge al suo compagno che lo sta portando dentro la casa e gli chiede: questo cane è molto bello, perché sta qua? Di fatto è su una specie di letamaio il cane, quindi è proprio messo malissimo. È un bel cane, però mi domando se era anche bravo nella corsa o agile nei giochi. Tu allora, Eumeo, fedele porcaro, così rispondevi: purtroppo il cane è questo d'un uomo che morto è lontano, e le ancelle incresciose cura non ne hanno più. Perché Omeo non sa che lui è Ulisse, ovviamente, quindi pensa che sia morto, e gli dice che di fatto, visto che il padrone è lontano, nessuno si cura più del cane. Dette queste parole, entrò nella fulgida casa e di filato andò verso l'atrio alla volta dei proci. Insomma, vede Argo, scambia queste poche parole con Omeo, e poi Ulisse distoglie lo sguardo ed entra in casa andando verso i proci. E qui ci sono gli ultimi due versi, le ultime due righe che raccontano di come il ritorno a casa abbia a che fare con la meraviglia, ma anche con la fine. Perché quello che succede ad Argo è che dopo aver aspettato per 20 anni il suo padrone, dopo che l'ha visto e ha scodinzolato, si lascia morire. E Omero scrive così: ed Argo fu ghermito dal fato di livida morte, poscia che egli ebbe, dopo 20 anni, rivisto il Signore. I see the lights of the city, I see them rising up, they're moving in the dark, a fire without a spark, for I will come for you, yes I will come for you, and we. La felicità è torna a una tavola imbandita, la felicità è stare con l'amante, la felicità è nella savana, e la felicità è tra le braccia di mia moglie, la felicità è sotto la grande quercia della Val d'Orcia. Ovunque sia la vostra felicità, andatevela a cercare e portatela con voi. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso anche oggi possibile il programma. Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Stefano D'Andrea. Visto che molti mi chiedono dove si possono trovare e riascoltare, come si possono riascoltare le puntate di Voi Siete Qui, ma anche alcune altre, vi ricordo due cose: che c'è una persona che si chiama Fabio Mora che ha raccolto tutti i podcast in un archivio. Se lo contattate, gli date un po', non credo gli date fastidio, lui è molto garbato e vi trova tutto. Invece ogni puntata la trovate sul sito di Radio 24 in podcast, poco dopo che è finito il programma, poco dopo dalla fine della diretta. Lo trovate sul sito di Radio 24 sotto la voce podcast, oppure in abbonamento completamente gratuito, e quello è più facile perché ve lo scarica automaticamente su iTunes, che è il software che gestisce la musica della Apple, ma che gira anche credo sui computer normali. Andate lì e cercate sotto la voce podcast Voi Siete Qui e trovate tutto. La storia di oggi era la storia di Vittoria e parlava del luogo in cui si trova la felicità. Quella di domani invece è la storia di Delia e parla di avvicinarsi all'abisso. Ritornai a trovarla dopo 2 settimane e la trovai seduta sul letto a leggere, come se non si fosse mai mossa. Era sempre molto magra. Chiacchierammo con calma. Mi disse che era riuscita a diplomarsi frequentando una scuola serale e che aveva intenzione di iscriversi all'università. Mentre parlava, vidi nei suoi occhi una luce nuova, un riflesso vivo, guizzante, come quello del naufrago quando vede la terra.